Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana e allora i temi di questa giornata economico-finanziaria. Partiremo con un'intervista, con dei collegamenti direttamente a Shanghai, perché oggi è stato presentato anche il padiglione italiano dell'Expo di Shanghai, Expo importantissimo. Si è da poco ufficialmente aperto l'Expo 2010 di Shanghai, che durerà fino al prossimo 31 ottobre. In realtà, visto che noi siamo il paese ospitante del prossimo Expo, come tutti sanno, quello di Milano del 2015, sarà anche l'occasione per fare il punto, da un lato, con il commissario generale del governo italiano per l'Expo di Shanghai, e mi riferisco a Beniamino Quintieri, dall'altro con Lucio Stanca e quindi l'amministratore delegato dell'Expo Milano 2015, anche per capire come vanno i tempi, che cosa si può imparare dalla Cina, qual è anche l'accoglienza verso il nostro paese. Noi siamo appunto, se si può usare il termine, ospiti di onore, essendo quelli che, come avviene anche un po' per le Olimpiadi, dovranno organizzare il prossimo Expo. Per la cronaca finanziaria, i mercati oggi sono di nuovo negativi, non in maniera drammatica, però insomma vanno sostanzialmente a perdere quello che avevano guadagnato ieri, meno 0,7 Milano e anche Parigi un po' meglio, Francoforte che perde solo lo 0,3, Londra meno 0,90, l'America meno 0,16%. Euro non in peggioramento, ma sempre fermo a quota 1,32, e diciamo che dopo aver riconquistato quota 1,32, era 1,31, non si è più mosso da lì. La lettura di molti osservatori è che, superata la fase più acuta della speculazione contro la Grecia e sui tentennamenti europei, comunque i mercati restino, e gli operatori e anche gli speculatori restino in attesa. Ci sono ancora molti dubbi, non è che tutto si sia risolto con la promessa della Germania di varare il piano di aiuti entro inizio mese prossimo, perché restano molte perplessità sul piano di rientro da questi buchi di bilancio del governo greco. I 120 miliardi ormai stimati per i prossimi 3 anni sono una cifra ingente, e appunto si attende di capire quanto poi tutto verrà e si strutturerà effettivamente in un piano di risanamento delle finanze greche. Ancora su questo c'è chi ha scritto, ne parleremo più avanti, beh, forse era meglio, lo ha scritto il Financial Times ma anche oggi su Sole 24 Ore, forse era meglio pilotare la Grecia verso un fallimento pilotato, un po' come si direbbe per le aziende, perché se poi toccherà trattare, avere questa spina nel fianco per 3 anni dei 120 miliardi prestati, non sono un vero e proprio elargizione, vengono ridati con gli interessi, però attenzione, perché sono sempre 120 miliardi, e c'è chi dice forse aver fatto fallire la Grecia avrebbe in maniera pilotata permesso di gestire meglio la situazione. Ancora vedo già degli sms: noi non salutiamo le categorie dei lavoratori, nessuno, se no dovremmo fare un programma apposito per questo, lo dico anche ai fiorai che gentilmente ci ascoltano ogni giorno. 349-238-6666 per i vostri sms. Oltre alla Grecia e la tensione sul mercato, i titoli oggi: Luxottica meno 2,60, Mediaset meno 2,20, Ansaldo meno 1,70, come Prismian e Parmalat l'1,6 lo perdono Mediobanca e Tenaris, 1,5% Fiat e Atlanti di calo, Azimut meno 1% come Unicredit e Generali e Finmeccanica che perde lo 0,90. Fronte opposto, chi guadagna? Pirelli più 1,6, Geox più 0,90, Italcementi più 0,80 come Buzzi Unicem e Fondiera Sai, Mediolanum più 0,6 come Saipem. Eterna, 0,5% percentuale il rialzo per Intesa San Paolo e Snam Rete Gas. Intesa San Paolo, allora, di quello che è successo ieri con il ritiro della candidatura di Domenico Siniscalco, uno dei due candidati ufficiali a prendere il posto di Enrico Salza nella presidenza del gruppo, candidati della Compagnia San Paolo, quindi dalla fondazione torinese di un gruppo che è, possiamo dire, diviso tra Torino e Milano, la fondazione milanese come è la Cariplo, sempre in Intesa San Paolo, dicevo, il ritiro abbastanza sbattendo la porta di Domenico Siniscalco, che ha detto non c'erano le condizioni, non si erano create le situazioni per essere sicuri, per avere un appoggio di questa nomina complessivo. Insomma, ne parleremo alle 17.45, la vicenda è abbastanza complicata, cercheremo di capire soprattutto che cosa potrà capitare adesso, visto che fermo restando quello che erano le date, le tappe, la prossima settimana comunque, attraverso un insieme di passaggi che adesso vi risparmio, deve arrivare o dovrebbe arrivare il nome del candidato proposto dalle fondazioni alla presidenza del gruppo bancario, che assieme a Unicredito è il più grosso gruppo bancario in Italia. 349-238-6666, dicevo, per gli sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, tra le notizie di oggi sicuramente i dati italiani, vorrei però come sempre partire dall'aspetto internazionale. Il petrolio è di nuovo in forte rialzo, siamo vicini a quota $86 al barile, 85,90 in apertura a New York. Il conto per quello che riguarda invece la marea nera che sta colpendo il Golfo del Messico, la piattaforma petrolifera Deepwater Horizon, tutto il conto, i costi saranno a carico della British Petroleum. È tornato a crescere l'oro, era un po' che non vedevamo l'oro rialzare la testa, continua la sua corsa, ha rivisto i massimi che non vedeva da dicembre del 2009, per cui $1,180 l'once. Ricordo che è il più alto dal 4 dicembre 2009, anche perché il 3 dicembre del 2009 dell'anno scorso l'oro aveva aggiornato il suo record storico a $1,227,50 l'oncia, per cui attenzione, insomma, non siamo a livello record assoluto, ma insomma 1180 non è poca cosa. Andiamo avanti con i dati americani. Il PIL americano nel primo trimestre è cresciuto del 3,2%, la cosa importante è sapere se è più o meno delle stime, è esattamente in linea con le stime, aveva fatto un più 5,6 nel quarto trimestre, un più 3,3 era atteso nel primo trimestre, ha fatto più 3,2. Comunque la cosa interessante sull'economia americana è che questa crescita del PIL americano, dell'economia americana, è tutta o per buona parte dovuta a un netto rialzo dei consumi, più 3,6% i consumi negli Stati Uniti, un dato da non sottovalutare anche e soprattutto per le nostre aziende che esportano in America, un dato superiore a ogni attesa, ed è l'incremento nei consumi americani più forte dal primo trimestre del 2007. E non si arresta né placano invece i problemi per Goldman Sachs, che ha aperto un'inchiesta, la Procura federale di Manhattan infatti ha aperto un'inchiesta nei confronti di Goldman Sachs, vuole accertare se Goldman o i suoi dipendenti hanno commesso frodi legate alle operazioni sui mutui, ed è legata questa iniziativa della Procura federale di Manhattan proprio all'azione legale civile della SEC, della Consob americana. Sulla Grecia volete sapere, ne parliamo più avanti, comunque attenzione, risale il rischio default misurato dai CDS, dai credit default swaps, dai premi assicurativi per chi è esposto sulla Grecia, tornati a 700 punti, in calo invece il rendimento delle obbligazioni greche, quindi anche della differenza tra quanto rende un'obbligazione greca e un'obbligazione tedesca. Domenica comunque si riunirà l'Eurogruppo, quindi i ministri delle finanze dell'area euro, Wolfgang Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, ha detto non vi saranno impatti da parte di questi aiuti sul bilancio tedesco, la Grecia è anche una chance, non sono pessimista, la situazione non è paragonabile a quella argentina, le banche sono libere di partecipare agli aiuti. E non a caso poco dopo l'amministratore delegato di Deutsche Bank, Joseph Ackermann, secondo quanto scrive l'agenzia Reuters, sarebbe la guida di un gruppo di banche e aziende tedesche pronte a fornire un pacchetto di aiuti alla Grecia. Il consorzio di aziende avrebbe già una disponibilità di circa 1-2 miliardi di euro. Ricordo infatti che la Germania ha un'esposizione verso la Grecia dovuta soprattutto ai prestiti fatti dalle banche tedesche, oltre 40 miliardi di euro. Evidentemente un po' di moral suasion, di pressione c'è stata da parte del governo di Bonn e di Berlino, Bonn una volta, di Berlino sulle banche tedesche, insomma, per farle partecipare a questi aiuti. Il ministro dell'economia Giulio Tremonti ha detto: conosciamo i problemi, rispettiamo e capiamo quello che sta facendo il governo tedesco. Per quello che riguarda l'Italia, noi siamo pronti al decreto per il prestito. È un prestito, non è un aiuto a fondo perduto, mi raccomando, a chi scrive. Siamo pronti con un decreto legge per far partire il prestito. Ieri è stato un buon giorno per il debito italiano, vista l'accoglienza del nostro collocamento di BTP a 3 anni, a 10 anni. E ancora l'ultimo dato prima di iniziare il nostro approfondimento sul Expo di Shanghai e di Milano. Il dato è stato sulla disoccupazione: a marzo in Italia è salita al massimo dal 2002 all'8,8%. È un brutto dato, è il dato peggiore dal secondo trimestre del 2002. Sono persi 367.000 posti di lavoro in un anno, quindi marzo 2010 su marzo del 2009. Il tasso di disoccupazione giovanile è comunque al 27,7%, e il 2,9% in più rispetto a un anno fa. Il ministro Sacconi, ministro al lavoro e al welfare Maurizio Sacconi, ha detto che i dati mostrano un leggero incremento, ce lo aspettavamo. Ci sono preoccupazioni per la difficoltà di questa ripresa di tradursi poi in maggiore occupazione, anche se il dato è migliore di quanto non si attendessero molti gufi. Questo era un regalo che abbiamo fatto al ministro, visto che appunto ha accusato vari commentatori di essere gufi. La dichiarazione invece del ministro Sacconi è stata, ripeto, anche di analisi e di interpretazione su quella che è la situazione attuale, che appunto vede una ripresa economica non ancora in grado di generare nuovi posti di lavoro. Mi preoccupa la dimensione della disoccupazione che abbiamo, perché al di là del dato mensile, che contiene alcuni aspetti negativi e qualche aspetto positivo, nel senso che scende il tasso di disoccupazione giovanile, scende il tasso di inattività di quelli che non cercano e non hanno lavoro, mi consola poco la differenza con l'Europa, nel senso che siamo al di sotto della media europea. Ma ci preoccupa il fatto che la ripresa, per quanto ci sia, è discontinua, e dobbiamo tradurla in posti di lavoro, e quindi dobbiamo ancora proteggere con gli ammortizzatori sociali coloro che sono costretti all'inattività e allo stesso tempo investire robustamente nelle competenze per accompagnare più agevolmente al lavoro. Così appunto il ministro Sacconi. Adesso noi ci occupiamo, come promesso, dell'Expo per quello che riguarda la presenza italiana, ma anche le attese per quello che è un Expo importantissimo, quello di Shanghai, un Expo che vedrà poi Milano essere l'Italia, Milano essere il paese ospitante. E allora oggi si è aperto ufficialmente l'Expo 2010 di Shanghai. L'abbiamo raccontato quanto ha, in molte occasioni, quanto a sforzo che ha fatto la Cina, ha spostato e creato un intero quartiere, ha spostato praticamente 300.000 residenti da una parte all'altra di Shanghai. Ringrazio allora per averci raggiunto in collegamento da un lato il commissario generale del governo per l'esposizione universale di Shanghai, quindi chi rappresenta il governo italiano a Shanghai. L'Italia, ripeto, è paese ospite d'onore, essendo poi il prossimo paese. Beniamino Quintieri, commissario, buonasera. Buonasera. Buonanotte, anzi, vista l'ora lì. Grazie. Sì, anche... è quasi mezzanotte. Ecco, grazie per la disponibilità, così come ringrazio per la disponibilità, vista anche l'ora, l'amministratore delegato dell'Expo di Milano 2015, Lucio Stanca. Buonasera anche a lei. Dottor Stanca. Buonasera. Buonasera. Allora, commissario Quintieri, insomma, è un Expo, quello di Shanghai, enorme, attesi 70 milioni di visitatori, 192 nazioni presenti, investiti 58 miliardi di dollari dalla Cina, è il modo in cui la Cina vuole, insomma, in qualche modo censire e ricordare il suo nuovo ruolo economico. L'accoglienza verso l'Italia, è, visto che lei è ancora, insomma, fresco e caldo di inaugurazione, di cerimonia inaugurale, commissario Quintieri. Siamo appena reduci da questa cerimonia inaugurale in cui, se ce n'era bisogno, abbiamo avuto un'ennesima dimostrazione di potenza organizzativa da parte dei cinesi, non solo per le strutture che hanno prodotto per questa Expo, ma anche per la capacità organizzativa che è veramente impressionante. Certamente, se ci fosse, non credo che ci saranno dubbi, sarà l'Expo più importante della storia dal punto di vista dei numeri, della partecipazione e anche tutto sommato dell'interesse, visto che c'è un grandissimo entusiasmo qui in Asia, si respira un'aria di emozione qui a Shanghai che richiama un po' quella che era l'atmosfera in Europa mezzo secolo fa o quando sono partiti di Expo. Quindi c'è una grande fame di apertura verso il mondo da parte dei cinesi, molti dei quali non hanno la possibilità di viaggiare, che come sappiamo sono stati per molti decenni isolati dal mondo. C'è una fame di conoscenza, una grande curiosità e speriamo di incuriosirli con il nostro padiglione e con le cose che abbiamo preparato. Commissario Quintieri, tra l'altro, dicevo, noi abbiamo il ruolo di ospiti d'onore, essendo poi il paese che ospiterà il prossimo Expo. Ho visto che è stata la moglie del presidente cinese Hu Jintao, Liu Yongqing, spero di averla pronunciata bene, da prima ospite a visitare il padiglione. Com'è l'interesse, l'attenzione e anche l'accoglienza degli organizzatori cinesi verso gli organizzatori italiani, non solo del padiglione ma anche del prossimo Expo? Ma questo lo potrà dire anche l'onorevole Sacchi, che verso gli esso di noi è stato sempre molto, molto calorosa e che c'è molto interesse sull'Italia. Devo dire che stiamo ricevendo in questi giorni di preapertura moltissime visite importanti e tra l'altro gli apprezzamenti che stiamo ricevendo poi si trasmettono a catena e quindi questo non può fare che bene non solo a noi ma anche a Milano. Credo che il miglior modo di promuovere l'Expo di Milano sia fare bella figura come paese, poi al di là delle cose si potranno fare in maniera più specifica, ma credo che incuriosire i cinesi e anche il mondo, gli organizzatori e anche degli altri padiglioni su quello che è l'Italia, credo che sia un ottimo mezzo per promuovere il prossimo Expo. Un'ultima domanda a lei, commissario Quintieri, ma per quello che riguarda il padiglione, ne abbiamo letto, l'abbiamo anche scritto, raccontato, un padiglione italiano che si basa molto sull'Italia come patrimonio culturale dell'arte, e molti hanno ricordato i quadri di Canaletto e anche altre opere d'arte. Ci può raccontare qualcos'altro di questo padiglione, visto che molti italiani non riusciranno a vedere? È un padiglione molto ricco, poi vorrei che lo raccontassero occhi più neutrali chi lo visiterà. Noi abbiamo voluto dare un'idea dell'Italia, della ricchezza del nostro paese, che vuol dire cultura, prodotti di qualità, made in Italy, territorio, tradizione, per far vedere che è proprio da questo mix di fattori che poi esce un paese che tutto sommato, al quale tutto sommato si riconosce un'alta qualità della vita, che è il tema predominante dell'Expo ed è una cosa alla quale il popolo, soprattutto i paesi emergenti, aspirano molto. Quindi l'idea è dire guardate all'Italia come un modello e quindi imparate a conoscerne la ricchezza. Allora, vediamo di capire che impressione ha avuto un visitatore esterno, Dio un po' coinvolto, perché onorevole Stanca, lei non è proprio un visitatore normale, però insomma il primo acchito, la prima impressione, poi arriviamo all'Expo di Milano, di questo padiglione italiano? Beh, il padiglione italiano innanzitutto all'uscita c'è proprio uno spazio dedicato all'Expo di Milano 2015, a modo di arrivederci a Milano. Per quanto riguarda il padiglione, la mia impressione è che è un padiglione dal punto di vista architettonico molto molto moderno e molto interessante. Dai contenuti c'è l'Italia, c'è l'eccellenza italiana, dal design all'architettura, dalla musica alla moda, dal cibo, c'è l'Italia, insomma c'è molto molto Italia, molto bello, molto attraente insomma il tutto, quindi avrà sicuramente tantissima curiosità e tantissimi visitatori, cominciando già dal primo giorno di prova, e qui c'è stata davvero folla. Allora, io lo dico anche a chi scrive al 349-238-6666, attenzione, perché è vero che da noi in Europa alcuni Expo non sono andati benissimo, penso ad Hannover, più che altro come costi rispetto ai ricavi, ma anche Siviglia non fu... Però in Cina, come ricordava anche Beniamino Quintieri, la stragrande maggioranza dei cinesi non può viaggiare, e lo sappiamo. L'Expo acquista tutto un altro significato, perché è un modo per conoscere il mondo, ecco perché si attendono 70 milioni di visitatori. È un po' diverso per un occidentale che ha modo di viaggiare e di muoversi anche in maniera autonoma e libera. Per cui diventa importantissimo come ogni singolo paese si presenta, perché per molti cinesi la visita al padiglione è veramente l'unico modo per ora di conoscere un paese come l'Italia o come altri paesi. Lei, onorevole Stanca, che ritorno ha riscontrato nei visitatori cinesi? Avete avuto per ora soprattutto anche le autorità, ma insomma l'interesse c'è? Guardi, è stato già detto anche dal commissario, questa è l'esposizione di gran lunga in termini di dimensioni, di numeri, di quant'altro, di investimenti, oltre 55 miliardi di dollari, è di gran lunga la più grande esposizione universale realizzata nella storia di queste manifestazioni, quindi gli ultimi 150 anni. È fatta soprattutto per i cinesi, il 95% dei 70-80 milioni di visitatori che si aspettano, loro dichiarano, saranno cinesi, quindi è fatta per i cinesi, per dare non solo l'occasione di visitare il mondo visitando i vari padiglioni dei vari paesi, ma aggiungo anche per dare ai cinesi questa rassicurazione che ormai la Cina è una grandissima potenza, c'è una prova muscolare, di forza, di imponenza, che rassicura molto i cinesi e quindi ha un significato tutto proprio visto dalla Cina, ecco. Quindi anche lei concorda nel dire che insomma c'è proprio la voglia, la volontà di dimostrazione di forza, una dimostrazione muscolare, fare capire che la Cina è il grande player economico e finanziario in questo momento, chiaramente insieme agli Stati Uniti, ma poco altro. L'Europa qualche problema in più ce l'ha, poi parleremo di Grecia, che chiaramente con l'Expo non c'entra nulla. Ancora una domanda, onorevole Stanca, poi veniamo all'Expo di Milano. Che cosa pensate di imparare, se così si può dire? Lei ha detto alle agenzie ieri, attenzione, noi abbiamo a Milano una concezione molto diversa dell'Expo rispetto a quello di Shanghai, sia come dimensioni e numeri, ma poi è un Expo che si occupa del futuro alimentare del pianeta, non di dimostrare la potenza o il nuovo ruolo della nuova Cina come nel caso cinese. Ma che cosa possiamo imparare dai cinesi nel caso specifico dell'Expo, chiaramente? Beh, certo, io sono venuto già 40 giorni fa, sono ritornato, ritornerò ancora, perché è l'ultima, dopo ci sarà la nostra, e quindi c'è moltissimo da imparare in termini di organizzazione, in termini di gestione di un evento così complesso come un'esposizione universale, che non dura 15 giorni come un'Olimpiade, ma dura 6 mesi. Quindi abbiamo un'ottima collaborazione con i colleghi cinesi, quindi c'è molto da imparare, però con la differenza che le ha sottolineato. In definitiva non voglio assolutamente criticare, perché continuo a dire che questa è un'esposizione fantastica dal punto di vista architettonico, ci sono delle costruzioni di una bellezza, come lo stadio di cui è stata fatta fino a un'ora fa la cerimonia di apertura, che è un'astronave bellissima, e dentro uno stadio di 18.000 posti a sedere, insomma cosa di una bellezza straordinaria. Quello però che voglio dire è che noi non seguiamo il modello cinese, non solo perché ogni paese deve interpretare a modo suo, secondo la cultura, la storia, la tradizione, ma anche i tempi. Questa io la colloco più nella categoria delle esposizioni, questa di Shanghai, diciamo dei grandi imperi, quando le Tour Eiffel, il Crystal Palace a Londra e quant'altro venivano utilizzati per proprio una prova di forza muscolare attraverso l'architettura. Ecco, il nostro modello è se vogliamo l'opposto. Noi non puntiamo su una forza, una monumentalità architettonica, ma su un paesaggio, quindi molto più moderno a mio modo di vedere e molto più in sintonia con il desiderio dell'Europa, del mondo occidentale, della qualità del contesto dell'ambiente in cui si vive, trattando il tema, grande tema, straordinaria attualità, che è la nutrizione. Quindi in definitiva noi non diamo enfasi al contenitore, per poi i contenuti ognuno è libero di interpretarla come vuole, e si vedono già i padiglioni, quelli che ho potuto visitare, che nulla hanno a che fare con il tema dell'esposizione di Shanghai. Noi invece vogliamo avere una sintonia totale tra contenitore e contenuto, cioè il paesaggio, il sito, il dispositivo esprime già di per sé il tema, che è la sostenibilità ambientale e la nutrizione. Ecco. Quindi ecco, una visione molto molto diversa da quella di Shanghai. Ecco, onorevole Stanca, le giro alcune domande che arrivano al 349-238-6666. Alcuni scrivono, beh, magari dai cinesi possiamo imparare i tempi, perché lei sa tutta la polemica, insomma, la conosce benissimo sui tempi, e ne abbiamo parlato anche noi a lungo, dell'Expo di Milano, c'è chi dice, insomma, è stato buttato via il primo anno, si è in ritardo, bisogna, adesso voi lunedì voi avete presentato il master plan, ne abbiamo parlato ampiamente in diretta, per cui c'è a questo punto tutto il disegno di quello che sarà l'Expo. Ci può dire che a questo punto anche i tempi dopo il master plan saranno, come ci immaginiamo, più veloci, e quindi più linea 4, linea 5? Chiarito che non siamo in ritardo, perché il l'organismo che gestisce queste manifestazioni chiede 5 anni prima, cioè entro il 30 di aprile di quest'anno, di presentare un dossier per essere autorizzati poi a realizzarlo. Noi l'abbiamo persino anticipato di qualche giorno, quindi non siamo assolutamente in ritardo. Quanto poi alla nostra complessità, questo è tutto un altro discorso. Qui in Cina evidentemente il sistema è tutto molto diverso, perché è molto, come dire, dall'alto verso il basso, e quindi tutte le complessità anche che ha una democrazia in Cina non la si trova. D'altra parte i tempi dettati dalla comunità internazionale sono di fare l'Expo in 5 anni. Certo. O l'Italia accetta l'idea di far parte della comunità internazionale e prova a fare le cose entro 5 anni, oppure dobbiamo autoescluderci, perché noi non siamo capaci di fare un'esposizione di 3-5 anni. Io rigetto questo approccio, perché significa davvero mortificare il nostro paese. A questo proposito, dopo la presentazione del master plan, appunto, che abbiamo raccontato, alcuni hanno ci sono state alcune dichiarazioni, penso al sottosegretario Castelli, che ha detto, beh, qui bisognerà commissariare alcune opere, cioè c'è stato anche un po' di così, misunderstanding forse col sindaco di Milano, col presidente della regione Lombardia. Cioè, secondo lei si arriverà, a me non interessa la parte politica, ma si arriverà a dover commissariare alcune opere per rispettare i tempi dell'Expo? Oppure si potrà. Io spero proprio di no, e al momento non ne vedo assolutamente necessità, e spero proprio di no. Castelli aveva, si sono chiariti con la Moratti, assolutamente era un discorso riguardante alcune opere in specifico, alcune linee metropolitane che sono state autorizzate recentissimamente. Castelli giustamente ha detto i tempi sono brevi, la Moratti ha risposto, io sono già di per sé commissario per queste opere, ma insomma sono cose talmente, diciamo, particolari, minime rispetto alla complessità della sfida che abbiamo nel promuovere attraverso esposizione non solo Milano e la Lombardia, ma l'Italia, che dovremmo, come dire, tutti quanti concorrere in modo positivo a ora fare questo grande sforzo di promozione dell'Italia attraverso l'Expo. Certo, tra l'altro io ricordo che vi sarà poi una missione di sistema, Confindustria, Banche Italiane, ICE, quindi ABI, Confindustria, ICE, a fine maggio, noi la seguiremo con come Radio 24, che toccherà anche Shanghai, non solo, andrà anche a Pechino, proprio in occasione dell'Expo di Shanghai. E ripeto, da sempre lo diciamo, quando l'Italia si presenta come sistema fa un grossissimo regalo a se stessa, quindi banche, imprenditori, gruppi medi, gruppi grandi, Ministero degli Esteri, Ministero dell'Economia, tutti assieme a presentare l'immagine di un paese unito. Un'ultima domanda, onorevole Stanca, io non ho capito una cosa, nella mia ignoranza, le famose vie d'acqua e raggi verdi che poi non sono più entrate nel progetto, che a me personalmente piacevano molto abitando qui, dipendono dall'Expo in senso stretto o diciamo da altri soggetti? Cioè, dall'Expo. Dall'Expo e sono rimasti. Faccio anche... Allora, una parola di chiarezza devo dare. Una cosa è il sito espositivo, che è 1 milione di metri quadrati rispetto a Shanghai, che sono quasi 6 milioni, 1 a 6, e lì è il palcoscenico centrale, ma non unico, della nostra esposizione, perché poi sarà Milano, la Lombardia, l'Italia in tanti luoghi. Poi c'è un progetto che sarà una delle eredità più significative e importanti che saranno lasciate dopo l'Expo, e che è questo progetto cosiddetto Via dell'Acqua o Parco dell'Expo, che partendo nel recuperare la Dassa di Milano e quindi i Navigli, e recuperando tutti i canali che ci sono, una ricchezza di canali tutta a ovest di Milano fino ad arrivare a nord-ovest dove c'è la fiera e il sito espositivo, si creerà un parco di 800 ettari, ricordo che Central Park è 320 ettari, quindi stiamo parlando di un parco enorme, 20 chilometri, di piste ciclabili, pedonabili, le vie dell'acqua non saranno navigabili perché non abbiamo il budget per rendere navigabili, però sono godibili, possono essere un contesto davvero di grande qualità. Recupereremo le cascine abbandonate che ci sono in questo grande parco per adibirle anche alla ristorazione, all'accoglienza per i giovani e poi anche alla commercializzazione dei prodotti agricoli. Insomma, questa è una delle grandissime eredità. Milano si troverà, grazie anche all'Expo, questo grande parco che parte praticamente dalla Dazza di Milano di 800 ettari e che va tutta la zona ovest, certo, a collegarsi con la fiera. Quindi, e noi... ecco, la concezione nostra non sono le architetture verticali, le Tour Eiffel, tanto che in te c'ho qui per esempio questa bellissima piramide rossa capovolta, che è il padiglione cinese, ma noi pensiamo più a lasciare un grandissimo paesaggio di grande qualità. Beh, noi ce l'auguriamo come cittadini italiani e in questo caso in chi parla anche come abitante a Milano, e poi soprattutto in bocca al lupo al commissario Quintieri, Benino Quintieri, e anche all'amministratore delegato dell'Expo di Milano, Lucio Stanca, per il fronte italiano, quindi Expo Milano, e anche però soprattutto in questo momento, visto che questa è la cronaca, per quella che sarà l'immagine che l'Italia riuscirà con il suo padiglione a proiettare verso la Cina. Attenzione, ripeto, ci scrivono molti ascoltatori che ci ascoltano dalla Cina, evidentemente via internet. È vero, i cinesi non possono spesso viaggiare per volontà anche non solo del governo cinese, ma anche perché ci sono visti molto lenti italiani verso i turisti cinesi, è un vecchissimo problema. L'Italia ha delle lentezze incredibili nel concedere visti per business, per lavoro ai cinesi che vogliono venire in Italia. È vero anche questo. Comunque, noi ve lo racconteremo poi quando lo vedremo e trasmetteremo in diretta anche dall'Expo di Shanghai. Grazie per ora appunto a Lucio Stanca, amministratore delegato dell'Expo Milano 2015, e a Benamino Quintieri, commissario generale del governo per l'esposizione universale di Shanghai. E adesso meteo, pubblicità e poi la borsa. Meno 0,6% la chiusura di Milano. 349-238-6666 per i vostri sms. ...17:44 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, dopo questa lunga pagina sull'Expo di Shanghai e anche di Milano. Ripeto, siamo un paese ospitante, poi vedremo. Vedo molti messaggi anche scettici, abbiamo fatto intere puntate esprimendo tutte le nostre perplessità. È giusto però anche dare la possibilità a chi è l'amministratore delegato all'Expo di Milano di chiarire che i tempi sono rispettati e che non vi sarà nessun problema, che il commissariamento è un'ipotesi che riguardava solo un paio di opere. Insomma, tutti hanno diritto qui di parola, lo dico anche a quelli che scrivono, non so perché, oggi sul nucleare, penso per quello che è stato dichiarato ieri sul nucleare, ospiteremo anche chi la pensa in maniera esattamente contraria. Adesso la borsa, meno 0,6%, giornata priva di enormi spunti. Devo dire che Milano però con Parigi è la peggiore, meno 0,6 anche Parigi, meno 0,1 Francoforte e meno 1,2% peggioramento nel finale per Londra. L'America meno 0,12 in questo momento sull'indice Dow Jones. Di Intesa San Paolo parleremo fra un attimo. Paolo Paronetto, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, il tono della giornata mi sembra di cauto timore, chiamiamolo così. Di nuovo sotto pressione alcuni gruppi bancari, l'euro adesso però riconquista quota 1,33, il dato sul PIL americano è stato assolutamente in linea con le previsioni, molto bene i consumi però in America, lo dico. Più 1,5 Pirelli. Sì, per quanto riguarda la giornata, come dicevi tu, non ci sono stati particolari spunti. Pirelli si è distinta, ha anche allungato sul finale della giornata, risultando la migliore del FTSE MIB, ha guadagnato l'1,52%, e il titolo ha beneficiato della performance della concorrente francese Michelin, che a Parigi ha guadagnato il 2,64% dopo la pubblicazione dei conti. Michelin quindi è stata una dei migliori del listino francese, dopo aver diffuso una trimestrale con ricavi in crescita di oltre il 12% e aver espresso inoltre ottimismo sull'intero 2010. C'è da dire inoltre che per Pirelli si sta avvicinando la prossima settimana il momento della pubblicazione della trimestrale e secondo le attese dell'annuncio concreto dell'avvio della scissione delle attività immobiliari. Quindi Pirelli Real Estate che si separa dal resto del gruppo dei Pirelli delle gomme, diciamo. Esattamente, quindi il titolo è sotto i riflettori, anche per questo l'appuntamento è sempre più vicino per il 4 maggio. Ancora vorrei parlare oggi di alcuni titoli che invece hanno risentito di nuovo. Luxottica sotto pressione, meno 2,5%, Mediaset ieri molto era cresciuta sulla notizia della partecipazione al bando assieme a Sisal per il Gratta e Vinci, oggi qualche vendita, meno 2,4 ci sta e come, sotto i 6 euro per azione. Vorrei però parlare, dicevo, di Luxottica. Banca Intesa, ne parliamo fra un attimo, comunque ha chiuso in rialzo Intesa San Paolo, più 0,3%. Siccome c'è anche il traffico, farei il traffico adesso e poi concludiamo con gli altri titoli. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Paolo Paronetto, dicevamo di Luxottica, insomma i conti di ieri positivi, già ieri però il giudizio negativo del mercato e oggi continua. Sì, esattamente, il titolo ha perso terreno anche oggi, ha perso il 2,52% all'indomani della pubblicazione dei conti, risultati che sono stati giudicati positivamente anche dagli analisti, tanto che per secondo qualcuno c'è un effetto che ci si aspettava addirittura che Luxottica potesse correggere al rialzo le stime sull'intero 2010, cosa che non è arrivata, e quindi possiamo dire che ci può essere stata un po' di delusione per questo. Ricordiamo tuttavia inoltre che Luxottica fino ad oggi è stato uno dei migliori titoli nell'intero dall'inizio del 2009, la sua performance è di un più 14% ed è seconda soltanto a quella di Saipem, quindi sono anche fisiologici adesso alcune vendite, alcuni realizzi proprio sulla notizia della pubblicazione della trimestrale, quindi si vende quando arrivano le notizie come tradizione, certo, in borsa, e quindi questo movimento è anche spiegato in questo modo. Allora, tra i migliori e peggiori, adesso poi leggo gli altri titoli, c'è sicuramente Acea più 4%, bene anche Pramac più 11% e Telecom Italia Media sul risparmio più 6,5%, vabbè, Elen più 6,1%. Su Acea c'è qualche tensione nell'azionariato, Sì, esattamente, Acea oggi è stata sugli scudi fin dall'avvio, chiuso in rialzo del 4%, il titolo è sotto i riflettori per queste tensioni che ci sono tra gli azionisti privati del gruppo. È proprio degli ultimi giorni la notizia che sia Francesco Gaetano Caltagirone che i francesi di GDF Suez sono saliti oltre il 10% del capitale, quindi sono movimenti che accendono l'interesse sul titolo, che ricordiamo è a controllo pubblico per il 51%, ma è anche vero che nei prossimi anni un 20% del capitale dovrà essere privatizzato, quindi sembra che sia Caltagirone che i francesi si stiano muovendo proprio nell'azionariato del titolo, e questo ovviamente accende l'interesse del mercato. Bene, oggi anche Saipem, ci sono indiscrezioni di commesse possibili per i gruppi in arrivo da Abu Dhabi, più 0,6%. E direi poco altro, vi leggo ancora alcune variazioni: Ansaldo STS meno 2, Prismia meno 2, Tenaris meno 1,80, Parmalat meno 1,80, Fiat meno 1,50 come Mediobanca e Atlantia, Azimut meno 1,4, Monte dei Paschi meno 1,1 come Finmeccanica, l'1% l'ha perso Generali, lo 0,90 Ubibanca e anche in pregiro lo 0,80 il calo di Unipol e Unicredito, lo 0,6 quello del Banco Popolare e di Eni, ma anche di Lottomatica e Destì Microelectronics. Chi guadagna, oltre ai titoli citati, Italcementi mezzo punto come Buzzi Unicem, Eterna, Mediolanum più 0,4, Fondiaria più 0,3 come Intesa San Paolo, e proprio di Intesa San Paolo, o meglio della compagnia San Paolo, parliamo adesso. Grazie quindi a Paolo Peronetto di Radio Colle sulle 24 ore, buon fine settimana a tutti i colleghi dell'agenzia di stampa. Insomma, in un giorno in cui è uscita anche la trimestrale di Edison, i ricavi sono stabili a 2 miliardi e 7, l'utile è raddoppiato, e in cui ha parlato anche il consigliere delegato di Intesa San Paolo, Corrado Passera, nel corso dell'assemblea degli azionisti, ha detto che il 2010 avrà un utile leggermente superiore all'attesa, che sono possibili acquisizioni sia adeguate, che il presidente del consiglio di sorveglianza di Intesa San Paolo, Giovanni Bazzoli, ha detto che tra l'altro non sarà necessario nessun aumento di capitale. Beh, insomma, tutte le attenzioni però non si concentrano sull'assemblea degli azionisti, ma su quello che è successo per quello che era il candidato che doveva essere proposto come presidente come del gruppo, e quindi prendere il posto di Enrico Salza, proposto dalla Fondazione San Paolo. Le fondazioni bancarie, lo abbiamo spiegato, sono gli azionisti di riferimento dei grandi gruppi bancari. Nel caso specifico di Intesa San Paolo c'è cioè la Fondazione San Paolo e la Calipro, quindi l'aspetto torinese e quello milanese. Riepilogo delle puntate precedenti, poi andremo a fare il resto dopo il GR. La Fondazione San Paolo propone due candidati: uno è Domenico Siniscalco, ex ministro dell'economia, ex sottosegretario ai tempi del primo ministero di Giulio Tremonti, e dall'altra parte Andrea Beltratti, che è un economista che insegna alla Bocconi a Milano. Arriva poi un'intervista su Repubblica del sindaco di Torino Chiamparino, che dice insomma Siniscalco è il nostro candidato, e questa intervista secondo molti è all'origine delle prime tensioni dentro il gruppo. Saluto allora e ringrazio per averci raggiunto in collegamento Alessandro Graziani del Sole 24 Ore, buonasera Alessandro. Buonasera a voi. Allora, Chiamparino come sindaco di Torino, quindi rivendicando anche quello che è il ruolo che molti governatori leghisti rivendicano nei confronti delle banche, cioè la città, le fondazioni devono operare per la città, dice Domenico Siniscalco è il nostro candidato. In qualche modo possiamo dire apriti cielo, perché lì interviene poi il presidente della Cariplo, che è anche presidente dell'Acri, Guzzetti, che dice attenzione, insomma, a noi queste indicazioni che arrivano dal mondo della politica, che Chiamparino non è solo un sindaco, è un esponente molto forte del PD, non fanno piacere. Alessandro. Sì, quello è stato certamente l'atto più forte che ha scatenato le polemiche sulle nomine, come ricordavi tu, e già aggiungere anche che Chiamparino in quell'intervista aveva anche detto che c'era stato un dialogo con il ministro Tremonti e il suo consenso sulla nomina di Siniscalco, che è stato un suo diretto collaboratore. E quindi la somma di questi due elementi ha agitato le acque nel dibattito tra le fondazioni se si stesse procedendo a una nomina di carattere politico e non lasciata all'autonomia della banca, anche perché tecnicamente la nomina dovrà essere fatta nei prossimi giorni dal Consiglio di Sorveglianza di Intesa San Paolo e non direttamente dalle fondazioni, che possono dare solo un loro parere. E quindi, nonostante vi fosse un appoggio bipartisan, anche se il PD poi ha criticato Chiamparino, ma insomma un appoggio che arrivava dal sindaco di centrosinistra di Torino e che ricordava anche la vicinanza di Domenico Siniscalco con l'attuale ministro dell'economia Giulio Tremonti, questa cosa insomma crea delle resistenze, mettiamola così. C'è un'intervista e una dichiarazione appunto di Guzzetti che dice attenzione, no, insomma, le nomine non possono arrivare dal mondo della politica. Vado a ripilogare velocemente le altre puntate. Restano questi due nomi fino a che ieri sera, ieri pomeriggio, Domenico Siniscalco comunica al presidente della compagnia San Paolo, Angelo Benessia, che era l'uomo che l'aveva, diciamo, il mentore che l'aveva portato avanti come nomina, come proposta di nomina, che non è più disponibile perché non si fanno giochi di pollaio sulla più grande banca italiana. Che cosa, in una battuta che poi dobbiamo dare la linea GR, Alessandro, ha creato questo ripensamento di Siniscalco? Ma il fatto, la considerazione è che non c'era un consenso unanime sulla sua nomina, e il fatto che lui abbia rinunciato anche in modo polemico nei confronti di Benessia e della Compagnia San Paolo è proprio perché gli era stato assicurato, in un certo senso, dato anche il calibro del personaggio ex ministro, che sarebbe stata una candidatura che aveva largo consenso, e invece i fatti hanno dimostrato che non era così. E lui quindi, cioè, rischiava di arrivare a un voto poi con un giudizio spaccato, o addirittura di finire sotto. Ecco, per tu ricordavi che Siniscalco è polemico anche con chi l'ha proposto, cioè con Angelo Benessia, in qualche modo dicendo: insomma, non avete verificato che ci fossero tutte le condizioni per questo mio nome, per questa proposta, visto che poi si sono spaccati in due. Questo è quello che è successo fino a ieri sera. Dopo il GR mi interessa capire cosa succederà da lunedì in poi, perché è una settimana importantissima per Intesa San Paolo. Rimando dopo il GR. 349-238-6666 per i vostri SMS. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa seconda parte di Focus Economia. Stavamo concludendo l'analisi di quello che è successo ieri con la rinuncia a sorpresa di Domenico Siniscalco a candidato a prendere il posto di Enrico Salza come presidente nel gruppo Intesa San Paolo. Riepilogo di quanto detto: due candidature, Domenico Siniscalco appoggiato in maniera palese dal sindaco di Torino Chiamparino in un'intervista, che ricordava anche la vicinanza di Domenico Siniscalco con il ministro Tremonti, lo stesso Siniscalco fu ministro, ricorderete, e la irritazione, le perplessità espresse dal presidente della Fondazione Cariplo, e quindi l'aspetto milanese delle fondazioni in Intesa San Paolo, e mi riferisco a Guzzetti, sull'idea che, insomma, queste nomine non devono essere fatte dalla politica in senso lato, ma dagli azionisti della banca. E le dimissioni ieri molto polemiche, la rinuncia alla candidatura molto polemica da parte di Domenico Siniscalco, che ha detto: insomma, non si fanno giochi di pollaio e non sono stato tutelato. Alcuni scrivono che Siniscalco se la sarebbe presa perché irritato da quanto letto nel verbale del consiglio pubblicato dal sito del Corriere della Sera su il suo mentore Benessia, che non l'avrebbe appoggiato abbastanza o verificato che vi fossero tutte le condizioni per arrivare a una candidatura forte, unanime, senza divisioni e spaccature. Alessandro Graziani, che era quello un po' che ricordavi anche tu, il timore di arrivare poi al voto e, avendo anche un altro candidato che Andrea Beltratti, non avere l'appoggio sufficiente, mettiamola così. Tra l'altro ricordo che ieri il presidente della Fondazione Torinese, quindi da San Paolo, Angelo Benessia, ha detto: ora Beltratti è il mio unico candidato. E poi di nuovo ha ricordato sempre ieri: Beltratti è il garante della torinesità della banca. È intervenuto anche il presidente della Regione Cota dicendo l'importante che le banche tornino a essere banche del territorio. Ma insomma, Alessandro Graziani, dopo questo così impasse, alcuni dicono pasticcio, che cosa succederà, visto che la settimana prossima dovrebbe essere la settimana delle votazioni? Sì, dopo la nomina che è in corso adesso qui all'Assemblea a Torino di Intesa San Paolo, che nomina appunto il Consiglio di Sorveglianza, la prima riunione dovrebbe essere lunedì, e lunedì il Consiglio di Sorveglianza via l'iter per la nomina del consiglio di gestione, quindi anche del suo presidente, ragionevolmente entro martedì, mercoledì, tutta la vicenda dovrebbe chiudersi, e a questo punto è rimasto Andrea Beltratti come unico candidato della Compagnia San Paolo. E in queste ore e nel fine settimana ci saranno consultazioni con le altre fondazioni azioniste di Intesa per vedere se c'è un consenso generale. In questo caso Beltratti tra pochi giorni diventa il nuovo presidente d'Intesa. L'alternativa, se anche questo candidato non dovesse passare, dati anche i tempi, ormai siamo a alla vigilia della nomina, l'alternativa che pure esiste e prende corpo è quella di un mantenimento in carica di Enrico Salza, che era lo storico presidente emanazione di Torino e del San Paolo. Allora, per quello che riguarda invece l'ipotesi Salza, che tu ricordavi che è un'ipotesi tutta teorica, in questo momento c'è un unico candidato che è appunto Andrea Beltratti, se però non ci dovesse essere unanimità e dovesse essere in qualche modo ripescata la nomina e il ruolo di Salza, questo che ripercussioni potrebbe avere sulla Fondazione San Paolo? Perché a questo punto sarebbe, da come la capisco io, una sconfitta totale della Fondazione San Paolo. Cioè il presidente propone due candidati, di cui uno più forte, più vicino a lui, Domenico Siniscalco. Questo si ritira in polemica anche con chi l'ha proposto, dicendo non avete appoggiato abbastanza, sintetizzo in maniera un po' brutale, non avete verificato che vi fossero tutte le condizioni. Se nemmeno Beltratti dovesse passare e passasse l'ipotesi Salza, a questo punto la Fondazione San Paolo, secondo te, come la prenderebbe? Beh, in Fondazione San Paolo direi che comunque, a prescindere, a questo punto, nelle prossime settimane ci sarà un confronto duro tra le varie componenti della compagnia, e già da tempo si dice, ed è stato chiesto anche un ripensamento alla presidenza, perché il ruolo svolto bene sia stato duramente contestato, alcuni consiglieri hanno già preannunciato le dimissioni. Come dicevi tu, nel caso in cui si dovesse arrivare addirittura a una conferma di Salza contro il volere esplicito della compagnia San Paolo, è evidente che le sorti di Benessia sono appese a un filo, ecco, come presidente della compagnia. Questo è un po' l'umore che si respira. Diciamo qui che, per usare un linguaggio da comunicato stampa, dovrebbe prenderne atto il presidente della compagnia San Paolo, con tutte le conseguenze, del caso. Grazie a Alessandro Graziani del Sole 24 Ore. Adesso cambiamo tema, dai problemi nelle nomine nel gruppo Intesa San Paolo, delle nomine espresse dei candidati espressi dalla Fondazione San Paolo, in questo caso torniamo a occuparci del tema della settimana, Grecia, con due però prima riferimenti a due notizie importanti che vorrei riepilogare e far riascoltare a chi si fosse orora messo in collegamento. La prima riguarda il PIL americano, perché insomma poi torniamo anche a rialzare la testa. Il dato ha confermato una crescita americana al 3,2% oggi, quindi con dentro le stime, nessun problema. La cosa più interessante che ha sorpreso tutti è che questa crescita del PIL americano, più 3,2 nel primo trimestre, è stata dovuta soprattutto all'aumento dei consumi a stelle e strisce. Eh sì, perché i consumi americani sono cresciuti moltissimo, un rialzo netto del 3,6%, la percentuale può dire poco, ma è il dato più forte dai primi tre mesi del 2007, cioè da prima che iniziasse a scricchiolare l'intera struttura dei subprime e della finanza derivata e deviata di Wall Street. Seconda notizia, che riguarda invece l'Italia, non è bello il dato sulla nostra occupazione, perché calano gli occupati e di converso e di conseguenza aumenta anche la disoccupazione in Italia. Devo dire che c'è stato un dato ISTAT oggi che ha visto calare di 367.000 gli occupati a marzo rispetto a marzo del 2009. E questo porta il dato sull'occupazione al 56,7%, è il dato peggiore quanto numero di occupati dal secondo trimestre del 2002. Molto alto, ahimè, il tasso di disoccupazione giovanile al 27,7%, quasi 3% rispetto a un anno fa, e il ministro Sacconi, pur ricordando che il dato è migliore di quanto non si attendessero molti gufi, ha detto però attenzione, insomma, questa ripresa economica fatica ancora a tradursi, questo inizio di ripresa economica, in nuovi posti di lavoro. Mi preoccupa la dimensione della disoccupazione che abbiamo, perché al di là del dato mensile, che contiene alcuni aspetti negativi e qualche aspetto positivo, nel senso che scende il tasso di disoccupazione giovanile, scende il tasso di inattività di quelli che non cercano e non hanno lavoro. Mi consola poco la differenza con l'Europa, nel senso che siamo al di sotto della media europea. ma ci preoccupa il fatto che la ripresa, per quanto ci sia, è discontinua e dobbiamo tradurla in posti di lavoro, e quindi dobbiamo ancora proteggere con gli ammortizzatori sociali coloro che sono costretti all'inattività e allo stesso tempo investire robustamente nelle competenze per accompagnare più agevolmente al lavoro. Così appunto il ministro welfare Maurizio Sacconi. Adesso parliamo di Grecia, perché insomma il mercato è più calmo, l'euro è 1,3280, 1,33, però non si placano i timori, e oggi ne hanno scritto sul Sole 24 Ore due, un collega da una parte e un economista dall'altra, su due fronti di questo, diciamo, salvataggio greco. Saluto e ringrazio allora per essere in collegamento Roberto Perotti, docente di macroeconomia all'Università Bocconi di Milano, che oggi ha scritto un pezzo in prima pagina sul Sole 24 Ore: quel salvagente non galleggerà. Buonasera. Buonasera Perotti, il gufo l'abbiamo già usato, oggi non lo possiamo riusare, ma insomma non è ottimistica la sua previsione. Grazie invece anche al collega del Sole 24 Ore, responsabile del sito internet del Sole 24 Ore, Daniele Bellasio, nostro ospite negli studi. Buonasera Daniele. Buonasera, grazie. Traffico, e poi cerchiamo di capire perché lei teme che il salvagente non galleggerà Perotti e perché tu Daniele dici a questo punto forse si poteva anche pilotare verso un fallimento pilotato, come si fa per le aziende, la Grecia. 349-238-6666 per i vostri sms. 18:20 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, professor Perotti, sintetizzando, perché il salvagente da 120 miliardi in tre anni con le prime tranche di prestiti non sono soldi a fondo perduto, i paesi europei ci guadagneranno anche con un tasso di rendimento al 5%, perché è un salvagente che non galleggerà? E probabilmente non galleggerà, la certezza non ce l'ho, ma la mia impressione è che la Grecia tecnicamente doveva fare default. Se guarda, il suo disavanzo è il 14% del PIL, il debito pubblico è il 125% del PIL, la crescita dell'anno 21 probabilmente sarà negativa, i prezzi probabilmente scenderanno, per cui il peso degli interessi in termini reali sarà ancora maggiore, quindi si mette insieme tutti questi pezzi, viene fuori che il debito pubblico della Grecia continuerà ad aumentare, e quindi tecnicamente la Grecia probabilmente è in default, dovrà fare una default. Quindi stiamo dando dei soldi a un paese che è insolvente, non un paese che ha dei problemi di liquidità temporanea, ma un paese che è tecnicamente insolvente. Questo non ha molto senso. Però mi scusi, siccome noi qui abbiamo sempre sostenuto che la Germania aveva delle grosse responsabilità nel temporeggiare per le elezioni tedesche, che bisognava spegnere l'incendio della casa europea prima che si propagasse Portogallo, eventualmente Spagna, Irlanda e via dicendo. Insomma, cos'altro da questo punto di vista, cos'è che non la convince nel piano? È chiaro che la Grecia in questo momento, con il bilancio, i deficit che ha creato con la falsificazione delle cifre dei numeri contabili, non è messa bene. Ma insomma, qui ci sono 120 miliardi su tre anni, dati anche per, tra virgolette, rassicurare i mercati su una capacità di tenuta dell'area europea che si è mossa molto molto lentamente, ma adesso sembra anche essere arrivata. Ecco, io non sono tanto d'accordo sulla sua premessa. Questa idea che ci sia sul banco degli imputati, oltre alla Grecia, ci sia la Germania, io non sono d'accordo. A parte il fatto che la Germania, come sappiamo tutti, ha questo problema delle elezioni del 9 maggio, ma indipendentemente da questo è perfettamente sensato, secondo me, adottare una linea molto dura verso un paese che si è comportato in modo irresponsabile non per 6 mesi, non per un anno, ma per 10-15 anni. E non è neanche completamente insensato pensare al limite di buttare fuori la Grecia dall'euro. La Grecia è solo il 3% del PIL europeo, quindi non credo ci sarebbero grosse conseguenze, piuttosto che dover continuare a fare questo tira e molla su decine di miliardi per aiutare un paese che si è comportato in modo irresponsabile, secondo me non è completamente insensato, e questo secondo me è quello che stanno pensando alcuni sì. politici tedeschi, di dare un esempio agli altri paesi. Va anche detto che però ci sono 40 miliardi di prestiti bancari delle banche tedesche alla Grecia, 80 miliardi di prestiti delle banche francesi alla Grecia. Se tu vai vieni sbattuto fuori dall'Europa, non so cosa possa capitare di questi prestiti. Daniele Bellagio, però tu oggi, sempre su Sole 24 Ore, scrivi una cosa in qualche modo speculare a quella che ha appena detto Roberto Perotti, e proprio perché qui ospitiamo qualunque opinione, ospitiamo anche opinioni che non sono quelle che avete sentito in questi giorni sulla vicenda greca e tedesca. Se ho ben capito, tu dici, beh, forse un fallimento pilotato, come dice anche il Financial Times, sarebbe servito? Beh, sarebbe servito allora, nel senso che sono passati 6-7 mesi da quando il premier greco ha annunciato che il suo paese aveva un debito insostenibile. E nel frattempo però i mercati hanno colmato il vuoto di politica dell'Unione Europea e l'hanno colmato con delle scommesse sulla indecisione, che vediamo ancora oggi, delle leadership europee. Quindi questo ha già prodotto dei danni, nel senso che il tempo che è passato ha prodotto tassi che si rialzavano, il tempo che è passato ha indebitato ulteriormente la Grecia, ha reso ancora più difficile il piano di salvataggio della Grecia. Io dico, fin dall'inizio, delle due l'una, la leadership europea doveva prendere una decisione: o la salvava bene e subito, o la faceva fallire, l'aiutava a riformarsi, assumendosi le responsabilità come un po' un giudice tutelare nei confronti della Grecia, perché ha perfettamente ragione ovviamente il professor Perotti: la Grecia è già in default e viene trattata dalle leadership europee come un paese in default. Sì, anche in una battuta, perché ho un minuto e mezzo, prima il professor Perotti, poi te Daniele Bellagio, ma il rischio che poi si incendiasse il resto della casa e che le banche europee esposte verso la Grecia crollassero in borsa, questo non vi spaventa, professor Perotti? Sì, il rischio c'è, però c'è anche un rischio speculare, cioè se si investono 120 miliardi per salvare un paese in default, poi gli speculatori hanno via libera con il Portogallo, perché sanno che l'Unione Europea non può organizzare un altro salvataggio da 120 miliardi per il Portogallo e men che meno per un salvataggio da 500-600 miliardi per la Spagna. Daniele Bellasio. Con il default i creditori della Grecia erano certi di avere almeno una parte dei loro, sì, dei loro l'Argentina soldi. L'Argentina su questo, beh, non, certo, non è un bel precedente. Diciamo che però l'Unione Europea dovrebbe almeno riuscire a garantire questo, quindi comunque con un default pilotato si sarebbe potuto più facilmente convincere la leadership greca ad attuare prima delle riforme e quindi a tappare le falle prima. Ripeto, 7 mesi sono già costati tantissimo. Io penso che il contagio più pericoloso sia il contagio dell'incertezza. Ancora una volta ha ragione il professor Perotti: se adesso si va così con la Grecia, il passo successivo dei mercati che scommettono sulle indecisioni delle leadership europee sarà sugli altri paesi, quindi il contagio ci sarà lo stesso. Portogallo ed eventualmente Spagna. Allora, voi la pensate come Nuria Rubini, che proprio su Sole 24 Ore di ieri ha detto, insomma, uno spreco di risorse. Non mi avete convinto completamente, nel senso che resto dell'idea, per quel poco che frega a chi ascolta, dell'idea che si dovesse operare prima il salvataggio e non lasciare andare la Grecia in default, ma è questo il bello, sentire le opinioni di tutti, anche quelle che non sono in linea con altre opinioni espresse. Grazie quindi al professor Roberto Perotti e al collega Daniele Bellasio. È vero quello che scrivono alcuni ascoltatori: la Grecia è un paese difficilmente gestibile se va avanti così anche nei suoi conti interni. Pensate che esiste in Grecia il bonus Zitella: le figlie non sposate degli impiegati pubblici hanno diritto a una pensione ereditaria di 1000 euro al mese. Io non so se questo da un punto di vista dell'economia classica incentivi poi le zitelle. Il bonus puntualità, nel senso che ricevi un premio se sei un dipendente pubblico se arrivi in orario, bellissimo questo, pari a 2 mensilità. E poi una marea di enti inutili, pensione anticipata a 50 anni, ma insomma le 600 professioni usuranti in Grecia, tra cui il parrucchiere, come professione usurante la vedo dura, e anche i suonatori di strumenti a fiato. In effetti certi suonatori di strumenti a fiato sono usurati, ma in senso più metaforico. Vabbè, di Grecia, dei problemi greci, torneremo a parlare la prossima settimana. Per ora, da Sebastiano Barisoni, un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione. Un augurio a voi in ascolto di un buon fine settimana. Ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.